Europa 24. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchiesi. In apertura all'immigrazione, con migliaia di migranti che arrivano in Croazia e Serbia, mentre l'Unione Europea dice bisogna difendere l'obbligatorietà delle quote. Abbiamo proposto di creare una forza europea che protegga le frontiere e se ci sarà una proposta della Commissione in questo senso siamo pronti a sostenere il sistema delle ridistribuzioni per quote, dice così il ministro degli esteri ungherese e replica all'appello del commissario europeo all'immigrazione Dimitris Avramopoulos, che proprio questa mattina da Budapest aveva chiesto agli ungheresi di continuare a lavorare per trovare soluzioni comuni e durature. Questi sono tempi duri che stanno mettendo alla prova l'Europa. La difesa delle frontiere con la violenza non è compatibile con i valori e i principi europei, ha concluso Avramopoulos. Il riferimento è soprattutto a quanto avvenuto nelle ultime ore al posto di confine serbo-ungherese di Orgos, dove nella notte sono andati avanti gli scontri fra polizia magiara e migranti. Il flusso intanto si è spostato in Croazia, dove nelle ultime 24 ore almeno 70 autobus e 180 taxi hanno fatto transitare più di 5.600 persone. È di poco fa la notizia che la Bulgaria ha iniziato a schierare fino a 1.000 soldati per rinforzare i controlli alla frontiera sudorientale con la Turchia, dove è sempre maggiore la pressione migratoria. Da Berlino anche la Merkel interviene. Le condizioni della Germania, dice, sono positive. Questo ci permette di far fronte alle nuove sfide. A proposito dell'arrivo di migliaia di rifugiati nel paese. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Italia, come il Belgio e la Francia, dovrebbe usare i risparmi da minori interessi per ridurre il deficit anziché aumentare la spesa. Lo dice, lo scrive la BCE, ricordando che Belgio e Italia hanno elevati gap nel consolidamento strutturale richiesto dalla regola del debito. La Unione Europea ha tenuto conto delle attenuanti di bassa crescita e di riforme. No alla cosiddetta Brexit. Jeremy Corbyn, leader anti-austerity dell'opposizione laburista inglese, non strizzerà l'occhio alla campagna euroscettica nel referendum sulla permanenza di Londra nell'Unione Europea ed è convinto che la maggioranza dei britannici non voglia uscire dall'Unione. Non mi vedo in questa posizione, ha detto alla BBC Corbyn, replicando a chi anche dentro il partito laburista ne ricorda l'atteggiamento tiepido verso Bruxelles. Corbyn, apertamente contrario a molte parti, come l'accordo tra UE e Stati Uniti TTIP, ha però insistito sulla necessità di un'Europa più sociale. Torniamo a parlare di Eurostat. L'ufficio statistico europeo, con sede a Lussemburgo, in particolare il suo sito internet, rinnovato e reso più interattivo. Sono 3 milioni gli utenti che ogni mese visitano il sito dell'Eurostat. Cooperazione, scambio e multilinguismo sono quindi gli obiettivi per cui rendere più efficace e semplice la comunicazione dei dati. Migliaia di informazioni e statistiche sono tradotte in infografiche interattive, diventando facilmente consultabili da chiunque. Sono 3 le piattaforme pubblicate quest'anno e tradotte in più lingue. La prima, dedicata agli indicatori economici come inflazione, disoccupazione e PIL dei paesi dell'Unione, è disponibile in inglese e nelle lingue dell'Est Europa. È stata recentemente tradotta in italiano l'infografica dedicata ai giovani europei, Young Europeans, e pubblicata sul sito dell'Istat. Online invece dal 1 di giugno la piattaforma interattiva con i dati sulla qualità della vita nei vari paesi europei. Questo strumento è stato consultato 70.000 volte, in particolare da numerosi media e social media. We are developing other infographics, so there is one... Come spiega Christian Levert di Eurostat, ad ottobre verrà pubblicata una nuova infografica sulla popolazione e gli indici demografici. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 14, 5 minuti, 24 secondi. Vi saluto qui Daniele Biacchiesi. Ricordo, Europa 24 ritorna questa sera all'interno di Effetto Notte. Europa 24, collaborazione con Euronet Plus.